Europa 24. La Libia, come la Turchia, arriva dal paese più piccolo d'Europa la presidenza di turno maltese, l'ambizioso progetto di voltare pagina nello scontro sull'immigrazione. Un saluto da Anna Migliorati, anche oggi a La Valletta si lavora dopo la cerimonia ufficiale di ieri per l'assunzione della presidenza di turno. Il premier maltese, da sempre concorde con la linea italiana, chiede all'Europa ora un dialogo con Tripoli. Allora sentiamo l'inviato a Malta. Il primo ministro maltese, Joseph Muscat, ha esortato stamani i partner europei a firmare con la Libia un accordo simile a quello siglato all'inizio dell'anno con la Turchia per meglio gestire l'arrivo di migranti in Europa. Parlando durante una conferenza stampa qui a La Valletta, Muscat ha spiegato che l'intesa firmata da Roma con il governo libico è una buona base per una ulteriore collaborazione con l'Europa. Il primo ministro maltese si è detto preoccupato per la situazione nel Mediterraneo centrale, votata a un peggioramento con la primavera, quando il tempo clemente indurrà molti migranti ad attraversare il canale di Sicilia per raggiungere il continente. L'intesa con la Turchia ha permesso di frenare drasticamente gli arrivi dal vicino Oriente, aggredendo direttamente il lavoro dei trafficanti di persone. La presa di posizione giunge mentre i 28 cercano di meglio controllare le loro frontiere esterne. Malta, che ha assunto la presidenza di turno dell'Unione dal 1 gennaio, ha fatto dell'immigrazione la sua priorità. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, La Valletta. Ha lasciato La Valletta per Roma invece il commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos per incontrare il ministro degli interni Minniti e quello degli esteri Alfano. In questi ultimi anni l'Italia si è fatta carico di grandi responsabilità, ha fatto sapere, una sfida che richiede un approccio europeo. I rimpatri, spiega, sono una componente fondamentale per fare in modo che le nostre risorse siano concentrate su chi ha effettivo bisogno di protezione. Intanto oggi entrano nella loro fase più cruciale altri negoziati, quelli per la riunificazione di Cipro, in corso a Ginevra. Ai colloqui partecipa a sorpresa anche il primo ministro turco, una presenza che conferma l'importanza di questa fase. Alla riunione in Svizzera c'è il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. La Repubblica di Cipro esercita l'autorità sulla parte meridionale dove vivono i greco-ciprioti, infatti membro dell'Unione europea dal 2004. E altre notizie dal fronte europeo: la Corte di Giustizia ha confermato l'ammenda 60 milioni inflitta al gruppo Roulier per aver partecipato a un accordo di cartello sui fosfati dei mangimi, salve invece le storiche figurine dei giocatori di calcio. L'Europa salva le mitiche figurine da collezione. La Panini non ha violato la concorrenza né nessun'altra legge del mercato unico europeo. La storica azienda Made in Italy, leader nella raccolta di immagini di calciatori, non ha insomma ottenuto benefici dalle norme. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Unione Europea, che di fatto ha confermato un parere datato 2014 della Commissione. All'epoca l'esecutivo di Bruxelles aveva respinto il ricorso di Tops Europe, filiale europea del colosso americano concorrente di Panini, che accusava l'azienda di Modena di aver ottenuto il dominio del mercato europeo grazie ai diritti in portafoglio degli eventi calcistici come mondiali e coppe europee. Ora i giudici europei mettono ancora una volta al riparo gli affari dell'azienda modenese, affermando che la concorrenza nel mercato degli adesivi e delle figurine da collezione non è stata falsata a beneficio di Panini. Non si può parlare dunque di preclusione del mercato agli altri concorrenti, perché anche Tops avrebbe vinto diverse gare. Il marchio USA ha infatti pubblicato album e figurine della Champions League, dell'Europa League e della Bundesliga. Inoltre il Tribunale ritiene che la durata degli accordi esclusivi chiusi da Panini con le istituzioni del football non sembra irragionevolmente lunga, né sembra condurre alla preclusione anticoncorrenziale. Infine, non vi è nessuna prova del fatto che Panini imporrebbe un obbligo di esclusiva ai dettaglianti della sua rete di distribuzione nei territori dell'Unione. Alessandra Schepisi, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E anche da Anna Migliorati ancora una buona giornata. L'Europa, vi ricordo, vi aspetta questa sera come sempre. L'appuntamento a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.